preso parecchia acqua, quello di Alvero. Ma poi ti volevo chiedere una cosa, se tu avevi un trasformatore 220 a 24. C'ho un 220, se non mi ricordo se è, mi sembra che l'avrebbe, è un 28 dovrebbe essere. Per quella 24 volt sì, io l'ho data a cosa, ma a Luigi Vulcano, quello del lineare, del BW-1001, infatti lo sta usando lui, l'ho lavorato a lui, cioè, era 24 volt mi sembra, 10-12 ampere, forse di più, anche di più, perché 700 watt li portava come niente, l'ho lavorato a lui. Positivo, ma non si busca qualche altro? Bisogna buscare il BW-2001, cioè, il mio c'è, cioè, i cavi grossi, se tu guardi quel BW-2001 che c'ha Luigi Vulcano, uno c'è il trasformatore piccolo, l'altro c'è quello che c'ha l'altro che è appena anche un po' rugginoso, quello c'è il trasformatore bello grosso c'ha, infatti l'attaccava lineare quel di là, 700 600 watt, si blocca tranquillo, capito? Ho dato per 50 euro mini, ho detto però te lo via, ho detto quella 50 euro, ho detto voleva partire tutto il locale, ho detto ruggiloso, ho detto poi, ho detto non c'ho lineare, cosa me ne faccio, io ho detto mi tocca comprare un lineare, ho detto tu che ce l'hai, io ho detto va bene, e infatti lo sto sempre per quello, ho detto fatti la modifica, ti fai l'attacco per due cose, ti fai due boccole e attacchi lineare esterno per il letto del camion, e poi al limite ne puoi mettere anche un interno se vuoi. Volendo, stacchi quello che c'è dentro, ci lo metti nuovo dentro. E infatti se l'ha preso lui. No, lo vedi, devo saperle le cose a volte. E vabbè, andiamo per lo stesso. E se l'aveva saputo, l'aveva dato a te. Lui l'ha visto, è venuto a casa, dice me lo dai. Io ho detto, vabbè, prendi, te l'ho detto. Gli ho detto, mi dai 50 euro. E ho fatto anche una voletta linea di su, gli ho detto, guarda, non voglio niente, ho fatto, mi dai 50 euro, gli ho detto, di questo... Se gli altri mi va bene, io ho detto, non mi interessa niente, perché non lo potevo vedere qua buttato, pesava accanto le cose, pesa più di 20 kg quel trasformatore. E quello è per casa, beh, quello lo metti lì e lo devi lasciare lì, capito? Non è una cosa da trasportare, no? Che è appunto quello? No, a me mi dava fastidio vederlo qua, diciamo, sempre in campagna buttato, all'umido. Mi dava lì, me lo sa, se l'ho avuto qui perché mi faceva fastidio vederlo che stava leggendo tutto. Poi ho detto, mi pulisci Roberto, che già funziona, e così ha fatto, mi ha detto che sta funzionando bene, e anche molta soddisfazione quell'affare. Se trovo magari qualche lineare di quelli lì, che qualcuno ce l'ha bruciato, che non se ne fa niente, che c'era l'alimentatore, volentieri te lo facciamo bene, e lui ti fa un alimentatore esterno per poter utilizzare i lineari di macchina, che va bene lo stesso. Sì, anche così va bene. Quello che c'ho io è 12 volt, da mi sembra 18, è un 12 ampere quel trasformatore che c'ho. Bisogna fargli tutto il circuito di addestramento, c'è una roba da fare, capitato di tensione, quindi è un casino. Se mi capita un trasformatore con i condensatori come quello di BW-2001, volentieri te lo faccio avere. E magari quello che va a Capri andava bene, no? Io c'avevo quel 2001, l'ho regalato a Capri. Magari quell'alimentatore lì andava bene per attaccare un 7,5 quelli di camion. Andava bene, sì, senz'altro. Mi avrei che 2001 è. Se il modello che c'avevo io, c'è trasformatore pesante, quello grosso, un bel 550, 750 te lo pilota. L'alimentatore già era quello grosso, sì, era quello a 4 valvole. E beh, BW 2001 ce n'è solo uno, quello della ZG, con 4 valvole, la ventola, è bello pesante. Più di uno ce n'è, ancora aspetti, più di uno, perché aveva mandato la ZG un sacco di schifi, più di uno ce n'è. Eh no, di quell'anno lì mi sembra che non ce n'è più di uno. Di quale anno è quello, Alessandro? A proposito, dimmi, per le capitolo. Di quale anno è quel lineare, Alessà? Quello è del 76. Ok, perché mi ha mandato un sacco di accendeva, oh Capri, quello, l'alimentazione accendeva tranquillamente, capito? E con quelle due valvole che c'aveva, mi sembra che andava anche in trasmissione, non vorrei sbagliare, ma forse andava anche in trasmissione. E poi giustamente, oh Capri, se non lo usi, che non lo metti a posto. Ok, adesso vogliamo salutare che è arrivata la 50 e ci facciamo il caffè in casa, domani prendo l'occhio. Ciao Antonio, ciao Alessandro, scusate perché sono al loco prima non mi ha scaricato la macchina, un attimino, poi nel caso riprenderò, comunque ci sentiamo, ciao Antonio, Alessandro e tutti gli amici in ascolto, quel re che ci lo chiamo, dai. Ciao Cap. Ehi, dimmi. E non ti sento, c'è portante. Ma sì, sono pulito la portante, bubu. Ma che ci vuoi fare? Ciao, ma sarà per tutti. Ciao Luce, Facebook, ciao. Pupù. Buona Pasqua. Ciao Pupù. Ciao, come sei importante, chiudo io. Ehi, buona Pasqua, buona Pasqua, buon Natale. Io sono qua all'ascolto io. Oh, Furio. grazie. Yeah, ciao Massimilia, ci sentiamo allora. Stavi bene dove ti dico io. Ciao, ciao. Ciao, buona Pasqua. Ciao. Ciao. Thank you. posso mettere. Roger, ha sentito. E l'altro giorno mi sono aggiustato l'antenna del filare, no, l'ho rimontato, c'era un PL, l'ho saldato e l'ho rimesso sopra. Ancora non ci sono andato da quelle parti. L'ombra, no. 45. Vengo direttamente. Cena, ciao Claudio. Care quella forza, care. Questo mondino Alghero che ha sempre facendo bordello, sta sempre facendo bordello. Fa bravo mondino. Invece sparare ai cani lì. Vengo lì Alghero e ti do un colpo di pistola al dito pollice. Lo senti a Sandro? Oh, sto andando. E K. K, ciao Mondino, buonasera, ben ascoltato non direi perché sia filo QRM. Fai qualcosa, aumenta, metti qualche stufa sotto. Guarda che Mondino c'ha un baracchino che ha comprato dai generalesi. Non lo sento più. Attenzione Mondino, mi ascolti? Poi Mondino, c'è cioè Mondino e Pinaggio, la Pinaggio lo senti? Allora forse la Pinaggio. Pinaggio, mi ascolti? Certo che ti ascolto, guarda che io sto scendo con 4 vati. Ah, sono Pinaggio, metti qualche stufetta sotto, fate ascoltare meglio. No, è oggi è sabato, domani metto il 4.40. Ho capito, dai, ho capito. Come mi ascolti di Dalghi? Santiago 4, la radio è 3, però è comprensibile. Ehi, vabbè, dai. Vabbè, dai, qua per attore c'è per avere un po' negativa. Va bene, riprendi, grazie. Claudio. Oh, hai già. No, questa è la tua bella. se attacco il 4.40 allora le cose cambiano, con questa antenna, hai capito Mondi? Sì, ho capito. Grazie, a me non per quello che ti interessa. Ah, mi sembra tre paesi di faccia in cui... Porcaccione, già. Circolare a tutti, alle prossime. Ciao, ciao, a te Mondi. Ehi, allora. un'antenna come la mia, no? E poi quella lì è zona ombra per noi, o mobili. Minimo ci vuole antenna come la mia, cioè come la tua. E che cazzo di antenna c'hai? C'è un'antenna di merda, nel senso che è un'antenna normale, non è che cazzo. Ma cosa antenna normale? Che la mia, l'antenna, la matto, la 1 è la più bella del mondo, la mia. Ah, no, Bus. Ogni tanto la rompero. Aspetta un attimino, dammi un peso. Grazie. Soprattutto perché ha dei vecchi, quindi abbiamo fatto Bistri, giù via Pasqua, dove ancora ho il cartello appiccato, vendeci. Lavori tutto a regalo. Per disabilità non. Ma già ci sentiamo, già ti chiamo e mi faccio un salto. Anzi, ti dico io domani. Devi venire Antonio a vedere una cosa qua. Se ne ha voglia passiamo un attimino, così ti faccio fare una roba. Ehi, mi fai una cortesia, va. Io non mi telefono nel numero esatto di Antonio. Però se vuoi venire ti fammi uno squillo, perché sono a casa, ma non lo lascio a parte. Sto uscendo oggi proprio per accontentare l'aria, oggi è il compleanno e quindi andiamo a mangiarci qualcosa fuori tutti assieme, in famiglia, con gli amici, eccetera. Siamo un 25 a poco regeni da Massimiliano. E quindi niente, io avevo sino alle 10 il turno oggi, avevo la disponibilità, invece alle 6 ha già vinto, perciò tutto per stare un po' in compagnia stasera, capito? No, se vuoi venire domani, confermatoti, così Antonio si porta via quella radio là e le dà una revisionata. E vedi come mi sono organizzato e tutto là. Figlia, io, vabbè, mi devo sentire una mattina con Antonio, perché devo passare qua a casa per questa cosa qua e non stava andando, però non stava andando. C'era una cosa inserita e l'ho risolta. E niente, adesso vedo, se in mattinata, non su tardi tardi, dovremo sentirci e glielo propongo, ci facciamo una passeggiata, dai. Lui lo sa dove sì. Quello che non sai dove sono, sporto sempre, non ti sono provato, non è cambiato niente. Allora va bene, lì già c'è, allora già si fa. Sempre lo stesso palazzo, sì. Come si entrava dal cancelletto, giravi a sinistra, nella scala F, capito, nella scala G, e invece si gira a destra, scala F, e c'è sempre lo stesso cognome, no? Non c'è problema, capito? Non c'è problema, non c'è problema, se no lui ci ha venito. Mi ha fatto una marcia, aveva le 10:60, tutto incasinato, sempre sul tran tran, la radio non ne parliamo, l'ha portata qua, l'ho tutta sistemata, ma io so fare quelle piccole stronzate o di, capito? Altre non mi metto a fare perché non c'ho gli strumenti, il reattore spettro, oscilloscopio, eccetera. Invece Antonio c'ha tutta l'attrezzatura, mi ha detto, ha rispolverato il laboratorio. Ehi, già lo so, già lo so. Per averli ne ho un bel robatti, comunque che si arrangia lui, perché non posso lasciarla ferma. Già ne ho, non è che rimango senza parlare, ma mi interessa quella lì, a me, capito? Questo, il 430 già c'è la T250, già va bene, ma l'idea è più silenziosa. No, questa si vede, questa è la battaglia, questa è prepotente come modulazione, forte, bella, chiara, limpida, cosa vuoi ti dica di più? E poi sta spingendo. No, cosa stavo dicendo? Beh, è simile al 440, no? Già lo ricordo, il 430. Solo che senza la T250 non vale niente. Infatti gli ho fatto la linea completa, niente, lascio stare così, cosa lo fa? Poi per il resto ho già uso anche il OIAES, uso il 140, C80, c'è il mio radio, c'è il 706, non è un problema, però mi interessa mettere a posto anche quella linea, così non la voglio vedere, non la voglio vedere. Ok, cosa ti ha detto Antonio? Per dire domani mattina lì da te? Allora, verbo adesso lo chiamo. Allora, sicuramente sì, ma io dovevo scendere a casa del padre, scendendo si faceva un salto qua, quindi sicuramente andrà a casa del padre a mangiare. Hai detto un'attimina che ti do, però ti chiamo adesso qua e trovo il numero di telefono, perché però lui ce l'ha a casa del padre adesso il telefono, che lo stavo chiamando e non mi rispondeva, ma ha risposto con l'altro numero che è della moglie. Io ti do il suo, che cacchio era, vediamo un attimino. Beh, ti chiamo a casa e trovo, vai. Tu me lo dare qua, non ti chiamo io al tuo, aspetta, me lo dai. Oh, ti sto chiamando a casa, aspetta. E mica trovo qua. No, dimmi. Allora, diccelo qua, però. C'è tutto centralizzato, ormai qua. Qua c'è il telefono col portatile in tutte le stazioni. Ok, vai pure, non c'è nessun problema. Tappa di rosmetro. E gli sto chiamando.